Steve a mis au point différents réservoirs. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Rieccoci e bentornati alla finestra sul cortile. Buona domenica a tutti. Televisione cattiva maestra, diceva Karl Popper. Secondo il grande filosofo, la TV era essenzialmente una macchina del male, un potere maligno che per sua natura diffonderebbe materiale diseducativo, immorale, al limite istiga i giovani alla violenza, un potere incontrollato che trasforma l'ambiente in cui viviamo, in cui crescono i nostri figli, che va imbrigliato, regolamentato prima che sia troppo tardi, altrimenti rischiamo di allevare tanti piccoli criminali. Come tutte le profezie, anche questa di Popper contiene degli elementi di verità e purtroppo ne abbiamo delle prove quotidiane, ma ci sono fatti in controtendenza che sembrano smentirla, almeno in parte. Vari studi hanno accertato, per esempio, che le soap opera, le telenovelas, hanno un impatto educativo positivo sui comportamenti individuali e sociali in molte zone del mondo. E i videogiochi? Beh, anche di quelli sentiamo dire peste e corna, come se fossero dei corruttori delle coscienze, la rovina di intere generazioni. Eppure sono anche una forma d'arte e in Germania hanno addirittura istituito un premio per il miglior videogame, una specie di premio strega o di Oscar dei videogiochi. Di videogame e di soap opera parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma intanto ascoltiamo che cosa prevede il sommario di oggi. America, le soap opera salveranno il mondo quando le telenovelas trasmettono messaggi positivi. Spagna, visti dagli altri. Benedetta Tagliabue, l'architetto italiano che rappresenta la Spagna all'Expo di Shanghai. Germania, un premio per i videogame, ma non per quelli violenti. Francia, le fialette puzzolenti, un prodotto sempre in voga nell'economia esilarante. Spagna, arte low cost. Cosa può produrre un artista con un budget di 6 euro? Un nuovo giorno è qui, anche per noi. Un mondo più vero si sveglierà. Io sarò qui con te. Saprai, il nostro domani sarà come vuoi. Se questa vita siamo noi. E molti di voi avranno riconosciuto la sigla di Un posto al sole, la soap opera italiana che dal 96 viene trasmessa su Rai 3. È ambientata a Napoli e ha raggiunto le 3.000 puntate nell'aprile scorso, toccando vari temi sociali. Ma in America, per esempio, c'è una soap opera intitolata As the World Turns, come il mondo gira, che addirittura va in onda da 50 anni e questa stagione sarà la sua ultima stagione. E in questa soap opera c'è una città immaginaria americana che si chiama Oakdale, nella quale nessuno di noi probabilmente amerebbe vivere, altro che la Napoli di Un posto al sole. È una città dove c'è un altissimo tasso di divorzi e una bassissima incidenza di fedeltà coniugale. C'è un'enorme frequenza di aggressioni, di omicidi, di stupri, di incendi dolosi e ogni altra forma di criminalità. E il sistema giudiziario locale ha la tendenza poi invece a incarcerare sempre gli innocenti. Ora, come mai le soap opera hanno questa tendenza a proporci delle realtà sociali così negative? È quello che si domanda Drake Bennett sul Boston Globe in un articolo intitolato, sorprendentemente, come le soap opera potrebbero salvare il mondo. Perché, scrive Bennett in questo articolo, nel mondo l'effetto, l'impatto l'impatto culturale delle soap opera, al contrario, è molto positivo. Per esempio, scrive Bennett, ci sono alcuni studiosi, alcuni economisti della Banca Mondiale, tra cui anche una economista italiana, Eliana La Ferrara, che hanno studiato proprio qual è l'impatto sui comportamenti individuali e sociali delle telenovelas, per esempio in Brasile. Si è scoperto che in Brasile, per esempio, le telenovelas diffuse da Rede Globo, che hanno circa 80 milioni di spettatori in un paese che ha 190 milioni di abitanti, quindi hanno un audience impressionante, ogni volta che queste telenovelas venivano mandate in onda nelle varie regioni del Brasile, in quella regione cadevano subito i tassi di natalità, segno che le donne tendevano, insomma, a comportarsi come le eroine della vicenda che vedevano sul piccolo schermo, tendevano a identificarsi in questi personaggi femminili più emancipati, che non si facevano maltrattare dal marito, che non restavano incinte continuamente, e quindi tendevano un po' a limitare le nascite. Secondo questi economisti, questi studiosi della Banca Mondiale che hanno analizzato il fenomeno, l'effetto della telenovela corrisponde per il pubblico femminile a 2 anni di scuola in più. Quindi, in pratica, insomma, attraverso la telenovela si hanno dei risultati sociali benefici. Ecco, ma proprio di questo tema parleremo ora con il nostro ospite, che è al telefono da Roma e che salutiamo. Buona domenica, Franco Scaglia. Buona domenica, Riccardo. Franco Scaglia è presidente di Rai Cinema, è un giornalista e uno scrittore, tra l'altro è autore con Monsignor Vincenzo Paglia di In cerca dell'anima, pubblicato da PM, quindi un libro che in qualche modo indaga anche questi problemi di rapporti tra cultura, etica e società. Ecco, abbiamo visto da questo articolo del Boston Globe che nei paesi in via di sviluppo le soap opera, le telenovelas hanno un effetto, un impatto positivo. Però meno nascite significa anche più divorzi, quindi le famiglie che si sfasciano. Ecco, la Chiesa, per esempio, non credo che reagisca positivamente a questi fenomeni. Da questo punto di vista penso proprio di no. Riflettevo su questo articolo, che è molto molto molto interessante. Certo, parla di un mondo diverso dal nostro. Il livello delle nostre soap è in alcuni casi discreto, in altri casi decente, in altri casi abbastanza buono. Però non so quanto incidano, perché sul processo di alfabetizzazione non credo che incidano, e su altro posso fare un'analisi un po' sommaria e superficiale vedendo lo sviluppo. Fa conto, prima facciamo qualche esempio. Ecco, prima abbiamo fatto ascoltare Un posto al sole, no? Per esempio. Il sole dura da tanti di quegli anni che il tipo di evoluzione che ha avuto, io ogni tanto mi capita di vederla perché la tengo aperta in ufficio per ragioni professionali, o guardo, e ho visto un cambiamento, cioè da quella che era un tempo di storie assolutamente private, oggi cerca di interpretare un po' quello che sono i temi sociali. Poi a Napoli anche la camorra, insomma, c'è, esatto, sullo sfondo, diciamo, lo ben conosciamo. Però da questo punto di vista la concorrenza alla SOP impegnata, diciamo così, è fortissima, perché la fiction va anche su quella direzione, perché ricordiamoci sempre che quando si parla di mafia, di camorra, di 'ndrangheta eccetera, la fiction funziona. Certo. O quando si parla di papi, sono gli elementi più forti e più interessanti, che di maggior presa sul pubblico. Quindi è il mio discorso un po' diverso da quell'interessantissimo articolo che tu citavi, perché io non credo che qui da noi abbiano prodotto grossi effetti. Per esempio, ecco, un medico in famiglia, no? Ha aumentato, secondo te, le vocazioni verso la professione medica? ha migliorato l'etica dei camici bianchi, non si direbbe, insomma, purtroppo direbbe, dagli... Considerando la situazione della sanità in Italia, appunto. Ogni volta che appunto apriamo i giornali, no? Noi sentiamo, leggiamo, vediamo i disastri, magari tutti cercano di fare bene, immagino, mi sono sempre orientato a pensare il bene e non il male, però insomma la sanità è un bel problema, quindi le fiction sulla sanità non hanno risolto assolutamente nulla. No, in compenso appunto abbiamo visto che ciclicamente nascono generazioni di bambini che si chiamano coi nomi dei protagonisti delle soap opera, però americane, non quelle italiane. Sì, è verissimo, hai ragione, è pieno di nomi di bambini che ricordano quelle soap, però non lo so, l'Italia io immagino la sento anche un po' diversa, anche vedo nelle reazioni del pubblico che va al cinema, insomma, cioè, non, e ogni tanto qualcosa di brasiliano io l'ho visto perché passa in televisione, sono molto molto molto diverse, anche perché c'è un tipo di sentimento diverso, un tipo di famiglia diversa. Ti dico, Riccardo, a volte sono anche un po' ridicole. Per noi sicuramente sì. Poi evidentemente da loro producono certi effetti, da noi sono un po' ridicole, con tutto il rispetto. Quindi non vedo quel tipo di influenza sull'Italia. Bene, noi ringraziamo Franco Scaglia, buona domenica e a presto. Grazie. Visti dagli altri. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia. La nostra rubrica settimanale sugli italiani che si fanno onore all'estero ci porta questa domenica in Spagna, anzi per la precisione a Barcellona, dove il settimanale El Cultural ha intervistato Benedetta Tagliabue, un'architetta italiana che vive e lavora da molti anni a Barcellona e che ha firmato e progettato il padiglione Cesto, così chiamato, che è l'immagine della Spagna nella esposizione internazionale di Shanghai. In questa intervista l'architetta italiana commenta la tendenza dell'architettura contemporanea a esaltare l'ego dei progettisti e dice: ma certo, l'ego è sempre una cosa pericolosa, però in qualche maniera ha fatto più belle le nostre città. Certo, l'ego è più pericoloso quando si unisce e fa combutta con l'ego dei ministri o dei sindaci. La finestra sul cortile. I videogiochi si fanno miliardi. Secondo me li perdi. Tutte le volte che Brad e Jonathan vanno in sala giochi mi rubano 50 euro. Ma no, io parlo di inventare videogiochi, mica di giocarci. Adesso con internet è facilissimo. Basta inventarsi un giochino stupido. C'è un impiegato coreano che ha fatto i soldi copiando i giochi che faceva in ufficio. Non so, tiro a segno con le pratiche, calcetta con il mouse, sollevamento boccioni. Tutti grandi classici, esatto. Ma sono la gara di aeroplanini infuocati. No, c'è. Tra due mesi esce anche il film. Ma tu pensa, sto coreano fa i soldi con giochini che noi facciamo dagli anni 90, mentre noi qua in ufficio inventiamo dei giochi olimpici gratis. Avrete riconosciuto il duo dei comici Luca e Paolo in uno sketch di Camera Café, la striscia comica di Italia 1, dove appunto i due attori sono due impiegati alle prese con la quotidianità della vita d'ufficio. In questo caso parlano per l'appunto di videogame e dalla Germania ci arriva proprio una notizia a questo proposito. Mentre in Italia già infuriano le solite guerricciole editoriali intorno ai premi Strega e Campiello, in Germania il ministro della cultura tedesco ha avuto l'idea di indire un premio per i videogiochi. Quest'anno è stato vinto da Anno 1404, una produzione software che si porta a casa la bellezza di 100.000 euro. Ci sono state polemiche, non tanto per la generosità del premio, quanto per i criteri di selezione, perché sono stati esclusi tutti i computer games in cui si spara e si uccide. Ora, in questo modo si esclude la maggior parte dei videogame in commercio e quindi quindi gli appassionati di videogiochi insorgono, è come se a un premio letterario non venissero presi in considerazione i gialli oppure i romanzi d'amore. Bene, allora parliamone con un ospite che abbiamo al telefono, ringraziamo di essere qui con noi alla finestra sul cortile. Buona domenica, Antonio Scurati. Buongiorno, buona domenica a tutti. Antonio Scurati, scrittore e anche studioso di problemi, insomma, di linguaggi della guerra e della violenza e dei loro riflessi sui media, soprattutto sul mezzo televisivo, e ricercatore allo IULM di Milano, oltre che autore di vari romanzi. L'ultimo è stato Il bambino che sognava la fine del mondo. In questi giorni è stato impegnato in una manifestazione Officina Italia a Milano, che è giunta ormai alla quarta edizione, che ha visto in scena vari scrittori italiani, e dal titolo Il mondo che verrà. Ecco, ma nel mondo che verrà, anzi nel mondo in cui che stiamo vivendo, i videogiochi sono un elemento centrale di espressione, di intrattenimento, e possono essere considerati delle forme di espressione artistica da premiare, come ha deciso di fare il ministro della cultura tedesco? Hanno un potenziale valore educativo, secondo lei? Temo di no, credo che non vadano in nessun caso sottovalutati o, come dire, trattati con un atteggiamento sommario di sufficienza o liquidatorio, però credo che la loro natura sia abbastanza lontana da quella della espressione artistica, almeno come l'abbiamo, insomma, tradizionalmente considerata. Mi sembra che indire un premio appunto sul modello dei premi letterari al miglior videogioco sia un po' un rincorrere goffo e affannoso da parte del ministero tedesco certi aspetti delle mode culturali del momento. Detto questo, il videogioco invece apre un territorio anche nuovo, diciamo così, di esperienza mediale di grande interesse, che però, ripeto, ha poco a che fare con l'espressione artistica e le manifestazioni della cultura che tradizionalmente veniva appunto promossa, premiata. Quindi secondo noi si farebbe bene a considerarla per ciò che è e non per ciò che noi vorremmo che fosse, insomma. Ecco, ma parliamo appunto di contenuti. Io così mi sono incuriosito e sono andato a vedere la classifica dei videogame più venduti, e tra questi ho scoperto che c'è per esempio God of War, che è una serie, diciamo, di videogiochi che sono ispirati alla mitologia greca. Ci sono proprio gli dei dell'Olimpo che si fanno la guerra, insomma, e quindi in qualche maniera, giocando con questo videogame, si impara qualche cosa sulla mitologia greca. Non è del tutto shock come idea, insomma. Non è affatto sciocco. Fra l'altro, Gods of War è di recente anche stato al centro di una campagna pubblicitaria estremamente inventiva che faceva riferimento alle elezioni in corso in Italia, non so se ci ha fatto caso, in cui si proponeva l'eroe, diciamo così, di Gods of War come possibile candidato politico che avrebbe risolto molti dei nostri problemi con le sue maniere spicce. Gods of War è un gioco formidabile che attinge, diciamo così, dal repertorio mitologico. Però anche qui mette in campo un immaginario che nelle sue modalità di funzionamento ha poco a che fare con il mito e la mitologia. Io non mi farei illusioni sul fatto che God of War possa essere uno strumento in qualche modo insegnamento, di iniziazione dell'utente a una conoscenza della mitologia. No, non è quello. Il territorio dell'esperienza, diciamo così, videoludica rompe un po' con le forme tradizionali del sapere, insomma, della tradizione, quindi. Sì, no, indubbiamente anzi segna un po' questa passione per il videogioco, secondo me è una punta avanzata di quella cultura di massa in cui diciamo così l'esperienza estetica erompe dai confini del mito, dell'arte, del rito in cui era tradizionalmente collocata. E il videogioco è una forma, è l'espressione di quella diffusione dell'estetico, di quella sua polverizzazione e del fatto che la vita tutta comincia a sprofondare in una dimensione immaginaria e ludica, e porta con sé una sorta di, da un lato, di perdita, diciamo così, di principio di realtà il videogioco, e dall'altro però di venir meno dei confini ben delimitati appunto dell'esperienza estetica come il mito, il rito e l'arte ci insegnavano. È una dimensione appunto perfettamente simulacrale, in cui la distinzione tra realtà e finzione diventa sempre più difficile, in cui l'immagine, diciamo così, che in cui ci si immerge in maniera proprio totalmente immersiva, non ha più un originale, diciamo, nel mondo reale a cui far riferimento, a cui rimandare. Ma quasi una vita autonoma, insomma, ci proietta in un universo alternativo. Sì, dell'esperienza simbolica, che è tipica ancora invece dell'arte, del mito, del rito, che sono cose che ci vogliono parlare attraverso dei segni e attraverso delle immagini della nostra realtà. Lì c'è una realtà alternativa che ci, esatto, che ci risucchia. Sì, come Avatar, insomma, come il film che ha avuto così grande successo. Sì. Noi ringraziamo Scurati, buona giornata e a presto. E dai giochi virtuali ai giochi un po' più tradizionali, parliamo delle bombette puzzolenti di cui si occupa la rivista francese online Rue 89, perché sostiene che mentre in Germania sono state messe al bando, in Francia molti buon temponi di tutte le età continuano a farne uso con grande sollazzo dei loro amici, un po' meno delle narici dei presenti. E sostiene questo articolo di Gaetan Pouliot che in Francia addirittura un negoziante ha venduto una di queste bombette a una signora di 65 anni che voleva usarla contro dei ragazzi che si radunavano sotto le sue finestre e facevano chiasso durante la notte. Per disperderle ha usato questi mezzi invece dei lacrimogeni. Certo, avremmo in mente come e contro chi utilizzare queste armi. Il problema è che con l'aria che respiriamo oggi in Italia nessuno ci farebbe caso. E adesso andiamo in Spagna, dove il settimanale ABC si occupa di una singolare mostra in corso alla Sala Off Limits di Madrid per iniziativa di un gruppo di artisti. È una mostra che mette in esposizione delle opere del costo di massimo di 6 euro. Una di queste, opera di un'artista chiamata Angela Quadra, è fatta di monetine da 2 centesimi di euro deformate. E dice tutto il titolo dell'opera è "Tutto il solido svanisce nell'aria", e purtroppo è quanto sta capitando in molti paesi dell'area euro. Certo, se il nostro futuro è la Grecia di queste ore, non ci resterà che la consolazione dell'arte, sperando che non taglino i fondi pure a quella. E per oggi è tutto, ringrazio Vittoria Mussini in redazione, Pietro Lacorte in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a domenica prossima, stessa ora. Scrivete le vostre mail a lafinestrasulcortile@radio24.it. Buona domenica a tutti.